puoi decidere le strade che farai, puoi scalare le montagne oltre i limiti che hai, potrai essere qualcuno se ti va, ma se non ami, se non ami, non hai un vero motivo per vivere, se non ami, non ti ami, non ci sei. Senso tutto quello che fai, puoi creare un grande impero intorno a te, costruire grattacieli per contare un po' di più, puoi comprare quello che vuoi tu, ma se non ami, se non ami, non hai un vero motivo per vivere, se non ami, non ti ami, non ci sei. Sopporta, crede in quel che fai e chiede di essere libero alle volte, e quando torna indietro ti darà di più. Senza amore noi non siamo niente.